Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:07, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. L'ultima notizia su questo caso in ordine di tempo è proprio di qualche ora fa. Una delle più famose case produttrici cinesi di caramelle ha annunciato la sospensione delle vendite di tutti i propri prodotti nel proprio mercato. Potrebbero infatti, anzi conterrebbero melamina, quel composto chimico usato per produrre plastica, colle, resine sintetiche, ma che si è scoperto in Cina, è stato usato anche da molti produttori per arricchire il latte. Lo scandalo del latte alla melamina, uno scandalo da proporzioni ancora non chiare. 4 bambini sono già morti, ma 53.000 bambini cinesi sarebbero malati, sono stati colpiti. Oggi l'Europa reagisce. La Commissione europea dovrebbe decidere il bando totale delle importazioni di tutti i prodotti cinesi per bambini e neonati provenienti da Pechino, dunque, che contengono il latte. Non so, biscotti, cioccolata, merendine. Un'altra cosa importante da dire è che il latte cinese già è bandito in Europa da anni, ma ora si dovrebbero bloccare tutti i prodotti che contengono anche minime quantità di latte, ripeto, biscotti, cioccolata, merendine, anche integratori per esempio, perché la melamina c'è il rischio anche lì, e in più controlli sul 100% dei prodotti che contengono più del 15% dei derivati del latte. Insomma, misura precauzionale, ma certo è nata anche quella che qualcuno ha definito un nuovo caso di sindrome cinese, o comunque sindrome da prodotti cinesi. Anche perché quando si parla di sicurezza alimentare bisogna andarci molto cauti, è una cosa che davvero ci riguarda tutti quotidianamente, davvero da vicino. Di questo parliamo. Saluto il sottosegretario alla salute, Francesca Martini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e benvenuta. Subito dopo la borsa ovviamente iniziamo, perché lei in prima fila, vogliamo ricordare, alla delega proprio del Ministero sulla questione della sicurezza alimentare. Alle 9:10 è davvero sindrome cinese o sindrome da prodotti cinesi. Ne parliamo col sottosegretario Francesca Martini. Voglio salutare anche Cesarina Bete, che è responsabile del Centro Referenza per la Sorveglianza e il Controllo degli Alimenti per Animali in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, insomma anche l'Istituto Zooprofilattico. Buongiorno, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E saluto anche Marco Wong, che fa parte di Associna, un'associazione che si batte per l'integrazione della comunità cinese in Italia. Buongiorno e benvenuto Wong. Buongiorno a lei. Senta, sottosegretario Martini, partiamo da lei perché ci sono delle importanti novità in arrivo dall'Europa. Innanzitutto, lei può tranquillizzare in Italia a dire che c'è massima sicurezza su questo fronte? Allora, intanto vorrei chiarire che quello che, a cui noi assistiamo oggi è un vero e proprio attentato alla salute del pianeta, perché l'aggiunta di melamina al latte ha già provocato gravissimi sintomi a più di 50.000 bambini in Cina, alcuni decessi, e quindi oggi parlare di latte cinese significa parlare di un vero e proprio latte killer. Assolutamente sicuro il latte europeo che oggi si trova in Italia, perché sappiamo che da moltissimi anni latte e derivate del latte di origine cinese sono vietati per l'importazione in Italia. Diciamo che l'Italia, ben prima anche di quello che è stata la direttiva europea del 2002, aveva posto appunto il blocco a questo tipo di importazioni. Il latte che c'è in Italia senza dubbio non ha alcuna contaminazione. Vi è però la preoccupazione rispetto a prodotti che possono contenere, come lei giustamente prima ha affermato, percentuali di latte o tracce di latte, come integratori alimentari, bevande e cereali in polvere, proteine isolate di soia e riso, aminoacidi vari, salse piccanti, salse di soia, biscotti dolci, alimenti dietetici, caramelle, sono tanti, la preparazione per zuppe, minestre e brodi, ecco, purtroppo questi prodotti ovviamente sono presenti anche nel nostro paese, ma in negozi assolutamente specializzati, negozi etnici, ecco, non sono prodotti che normalmente sì. Insomma, sono così diffusi sugli scaffali dei nostri supermercati, quindi io mi sento assolutamente di rassicurare i consumatori, ecco, rispetto a sicurezza di tutto quanto viene distribuito legalmente in Italia. Senta, sottosegretario, ma quello che ha deciso l'Europa o quello che deciderà oggi molto probabilmente l'Europa, lei come lo condivide? È una misura precauzionale, allora, voglio dire. Sì, ma noi l'abbiamo, sono decisioni che noi abbiamo assunto già preventivamente in un vertice che si è tenuto martedì al Ministero, proprio riguardo alle importazioni di prodotti cosiddetti composti. E noi in questo momento stiamo bloccando tutte le importazioni di prodotti composti ai porti italiani. Su queste importazioni noi chiederemo una certificazione aggiuntiva, faremo dei controlli a campione, altrimenti questi prodotti non potranno assolutamente essere introdotti nel nostro paese, anzi verranno distrutti. E siamo stati i primi a preoccuparci in Europa del problema degli alimenti composti, cioè di quegli alimenti che possono contenere potenzialmente latte, e ci stiamo preoccupando anche delle derrate o delle riserve presenti in varie tipologie di esercizi, come i negozi etnici, come i ristoranti e come qualsiasi diciamo negozio che possa in qualche maniera aver avuto contaminazione con prodotti o introdotti illegalmente o comunque che hanno un potenziale contenuto di latte. Guardi, sulla questione dei ristoranti tra un attimo mi permetta, ma ci ritornerò, non me la lascio sfuggire. Senta, però lei ha fatto un intervento su Libero, credo ieri, in cui ha parlato anche di una dimostrazione tangibile da questo scandalo di un fallimento di politiche economiche e produttive di globalizzazione. Cioè, vorrei allargare un po' il discorso alla questione, insomma c'è un po' una sindrome cinese, tutto quello che quando si parla di Cina c'è qualcuno subito che strabuzza gli occhi e dice attenzione, eppure stiamo parlando del paese che ha la più grande crescita economica mondiale. Allora, c'è anche un po' un intervento di quasi manifesto ideologico nei confronti di questa vicenda, secondo lei? Ma guardi, il problema è oggettivo, cioè il problema è un'assenza di regole sia per quanto riguarda le politiche produttive, cioè i diritti dei lavoratori, i diritti umani, ma anche un problema per quanto attiene anche alle mie competenze, legato soprattutto agli alimenti. Non è un caso che il latte cinese sia stato bandito da moltissimi anni in Europa. La motivazione è molto semplice: non possiedono, nei processi produttivi non vengono applicati quei protocolli che in Europa abbiamo introdotto, che riguardano la sicurezza per il consumatore, non vengono applicate quelle autorizzazioni alle aziende e quella soprattutto valutazione dei residui all'interno dei prodotti, per cui è chiaro che non è un problema ideologico, è un problema oggettivo legato alla qualità dell'alimentazione. Per quanto riguarda la possibile sindrome cinese, purtroppo sono molti i prodotti che in questi anni ci hanno creato problemi. Penso ai giocattoli con componenti che purtroppo non sono sicure per i bambini, penso insomma anche alla qualità intrinseca del prodotto. Quindi la delocalizzazione comincia davvero a dare i primi segni di difficoltà, di disagio, di gravità, perché delocalizzare oggi non significa soltanto portare gli stabilimenti in Cina come in altri paesi emergenti, ma significa avere operatività in un contesto che non comporta soltanto una riduzione del costo del lavoro, ma comporta anche una riduzione delle garanzie per chi consumerà quel prodotto. Senta, questo mi sembra una cosa assolutamente grave. Lei ha detto che per i consumatori italiani si può stare tranquilli, però ha parlato insomma di negozi etnici, di prodotti che vanno in quel tipo di mercato, però ci sono tantissimi immigrati, sappiamo, in Italia, che si riforniscono in questi negozi etnici. Anche quelli sono altrettanto sicuri? Oppure sta dicendo andate a comprare italiano perché in quei negozi etnici la sicurezza non è al 100%? Guardi, io da sempre consiglio il prodotto italiano non soltanto per la qualità che ci viene riconosciuta in tutto il mondo, ma anche perché il prodotto del territorio senza dubbio ha delle garanzie di conservazione e di attenzione ai processi produttivi che senza dubbio alcuno un prodotto trasportato in container o conservato o congelato non possiede. Per quanto riguarda quegli esercizi che possono in qualche maniera avere dei prodotti anche importati illegalmente, perché quello che stiamo facendo anche grazie attraverso l'operatività straordinaria dei NAS è proprio quello di controllare container che eventualmente potessero avere al loro interno merci non dichiarate che riguardano i prodotti di cui è vietata l'importazione, ma non solo i container, anche i bagagli provenienti dalla Cina o i pacchi. Quindi quello che stiamo facendo grazie all'aiuto di tutte le risorse anche che abbiamo in porti, aeroporti, dogane è proprio quello di avere un controllo massimo. Però io ecco mi scusi sottosegretario, insisto su questo perché secondo me la funzione di un governo, delle strutture è di visto che i negozi etnici sono perfettamente regolari, io potrei rifornirmi lì perché mi piace magari la cucina cinese, è appunto controllare che tutto venga svolto nella massima regolarità. Certo. Le ripeto la domanda, se io entro in un negozio etnico, secondo lei sono al 100% sicuro come se entro in un supermercato italiano o in un mercato dove non ci sono prodotti etnici? Guardi, se lei trova del latte importato illegalmente o prodotti che potrebbero essere importati illegalmente rispetto alle decisioni di oggi dell'Europa, io considero che questa sicurezza non sia la stessa, i margini di sicurezza non sono gli stessi rispetto all'acquisto in un normale supermercato dal nostro. E lì i prodotti illegali sono più diffusi rispetto a quelli che trovo sul supermercato, questo mi sembra. Abbiamo già avuto delle prove, subito appena abbiamo avuto sentore di questo vero e proprio frode alimentare di gravissima portata, abbiamo fatto dei controlli a campione e a Milano abbiamo sequestrato centinaia di bottiglie di latte e di yogurt importati illegalmente e a Firenze 650 kg di biscotti che ora sono all'analisi appunto per un eventuale contenuto di latte e di appunto latte. E allora guardi, prima di andare tra un attimo da Marco Wong le chiedo, poi io vi preannuncio, vi voglio far ascoltare un'intervista che abbiamo realizzato in Cina questa mattina, un'intervista a un personaggio straordinario, ve l'anticipo, è un giornalista dissidente messo in carcere dopo Tiananmen, da qualche anno si occupa di sicurezza alimentare, ha scritto un libro che è uscito anche in Italia, ovviamente censurato in Cina, su proprio la sicurezza alimentare, o meglio la non sicurezza alimentare in Cina, ci dice delle cose veramente abbastanza dure e sconvolgenti se tutte confermate. Però le chiedo, sottosegretario, questa vicenda dei ristoranti cinesi, insomma lei ha detto, ma io non ci voglio credere che lei non sia mai entrata in un ristorante cinese in vita sua. Invece è così, invece è così. Ma perché, voglio dire, cioè per una questione di sicurezza da sempre, una questione, non le piace la cucina cinese? Ma guardi, questo ci può stare. Amo moltissimo il mio paese e quello che mangio, si dice molto che quello che si mangia diventa parte di noi, quindi io sono molto legata alle tradizioni italiane, in particolare a quella del mio territorio, del Veneto. Però insomma i ristoratori cinesi si sentono un po' sotto attacco, a dire ci stanno screditando, potrebbero anche subire un contraccolpo economico per una campagna di questo tipo. No, guardi, non esiste una campagna, esiste la necessità per il governo italiano di tutelare la sicurezza dei cittadini, quindi non è un problema di cucina, ma è un problema di sicurezza degli alimenti. Quindi se, io l'ho detto più volte in parecchie interviste, se si è amanti della cucina cinese, che è una cucina millenaria, importante, che ha una sua cultura veramente storica, ecco, l'importante è fare attenzione a non assumere cibi che possono contenere potenzialmente latte e questo è in linea con le decisioni che prenderà oggi anche l'Europa. Allora, Marco Wong, che ne pensa? Ricordo membro di Associna, associazione che si batte per l'integrazione della comunità cinese in Italia. Sentite questo accerchiamento da sindrome cinese? Beh, direi proprio di sì, perché è storicamente dimostrato che alle volte c'è un accanimento in questi termini, perché per esempio durante precedenti crisi in cui si è sollevato un grande polverone, per esempio nel caso della SARS o dell'influenza aviaria, in cui insomma c'erano inviti analoghi ad avere cautela, se non proprio a boicottare i ristoranti cinesi, però non c'è stato nessunissimo caso di contagio dovuto alla frequentazione di ristoranti cinesi. Per cui, diciamo, sollevare questo allarme, che insomma è sicuramente giustificato per alcuni versi, per la gravità così del problema in Cina, però insomma dobbiamo ricordare che insomma la cucina cinese si basa praticamente nulla sui latticini, quindi poi tra l'altro i latticini, come ricordava il sottosegretario, non sono importati in Italia. Sì, certo, il latte e i prodotti caseari cinesi sono da anni banditi, si tratta della questione di derivati. Sottosegretario, mi è arrivata una mail un po' lunga, però è interessante perché è scritta da, lo ringrazio perché si firma Francesco, oltre che col nome suo originale, che è Hu Xuxuan sostanzialmente. È un ristoratore cinese, dice: sono un ragazzo 34enne di origine cinese, vivo in Italia da circa 20 anni, gestisco un ristorante cinese a Rimini tramandato da mio padre che sta andando in pensione. Scrive tutta una lunga mail dicendo che insomma i prodotti sono assolutamente sicuri, il latte che si usa è latte italiano, le nostre salse agrodolce, salsa di soia, salsa piccante, salsa al curry, tutto a norma. Dice anche insomma il ministro Zaia non viene nei nostri ristoranti perché forse costiamo poco e quindi un politico si può solo abbassare ad andare nei ristoranti che costano molto. E poi conclude dicendo: concludo solo con un episodio. Per la prima volta quest'estate in 15 anni, mentre fumavo una sigaretta fuori dalla porta del mio locale, delle macchine che passavano si sono fermate, non ho sentito la solita imitazione di parlata incomprensibile in mandarino, ma un forte e chiaro cinese bastardo. Sottosegretario, che vuole rispondere a questo? Ma questi sono casi gravissimi di vero e proprio, diciamo, odio razziale che condannerò sempre e che ritengo indecorosi, indecenti nel nostro paese. Purtroppo succedono in tutto il mondo queste situazioni. Ecco, sono molto contenta di sentire questo giovane che appunto dice: utilizzo prodotti del territorio e poi li interpreto con la cultura e, diciamo, le tradizioni della cucina cinese. Questo credo che sia un modo corretto per poter offrire ai cittadini, ai consumatori italiani amante di questa tipologia di cibi un sistema di tutele che sia equiparabile a quello che abbiamo in Italia. E allora, siccome lei ci deve lasciare il 9:30, mi faccia dare un paio di ascoltatori e poi la liberiamo all'800 24 00 24. Sergio da Genova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Saluto lei e tutti i suoi ospiti. Senta, io volevo fare un intervento un po' più a largo raggio, non solo sul latte cinese, nel senso che ora è scoppiato, diciamo, questo problema qua, ma più mirato verso i prodotti che arrivano dalla Cina in generale, giusto? Io, guardi, vivo a Genova, no? Una città di porto, e lì nell'Angiporto ci sono parecchi negozi cinesi, diciamo, no? Che negli ultimi 2-3 anni hanno avuto proprio un'escalation pazzesca, no? Hanno praticamente fatto chiudere quasi tutti gli altri negozi, sono rimasti solo loro. Mi segue? Sì, la seguo benissimo. Cioè, qual è il tipo di intervento? Il tipo di intervento che volevo fare io è che se lei entra in uno di questi negozi qua, che chiamati cineserie o prodotti tropical, eccetera, eccetera, io le posso assicurare che il 90% dei prodotti sono fuori legge. E lei come lo sa? Io lo posso assicurare, io le faccio un esempio. Allora, io ho assistito l'anno scorso a un sequestro lì nella via Gramsci, diciamo la via principale nell'Angiporto, a un sequestro di materiale per bambini, giocattoli e similari, no? Perché era sprovvisto del market share. Dopo qualche mese, cosa hanno fatto questi signori qua? L'hanno mandato in qualche fabbrichetta lì, non so, intorno alla Liguria o nel nord-est, dove l'ha mandato, non lo so, sono ricomparsi questi prodotti qua col marchio Ceno, erano gli stessi. Va bene, Sergio, insomma, lei dice non si fida addirittura al 90% questa statistica, so, poi le percentuali uno le può buttare lì così, però non so lei da dove le deriva questa certezza che il 90% dei prodotti di questi tipi di negozi etnici siano irregolari. Sottosegretario, prima di liberarla, lei ha detto, insomma, in apertura è un attentato al pianeta, questo è una frase, sì, forte. Alla salute del pianeta. È una frase forte. Sì, è una frase forte però realistica, perché il coinvolgimento di più di 50.000 bambini in Cina e la possibilità che l'utilizzo di questi latte, di queste farine e latte, possa in qualche modo aver leso la rete sulla sicurezza alimentare globale, nel mondo, europea in particolare, che abbiamo costruito con tanta fatica, credo che sia davvero una cosa di una gravità assoluta, che poi si innesta purtroppo in un metodo che è quello di produrre a basso costo, quindi di fare una concorrenza anche sleale nei confronti dei nostri produttori, delle nostre aziende, e di chi produce nel rispetto dei diritti dei lavoratori e soprattutto nel rispetto del consumatore finale del prodotto, ecco, che lede proprio anche l'etica e la possibilità che si possa davvero cominciare a lavorare in maniera seria e fattiva anche con quei paesi, e mi auguro che quindi su questa cosa non soltanto oggi dall'Europa arriverà, come so già, arriverà un ulteriore divieto per altre tipologie di prodotti, ma anche e soprattutto un grande dibattito all'interno del nostro paese in Europa, perché come dico, ho sentito parlare di aziende italiane, negozi italiani, anche piccoli bottegai italiani che vengono strozzati ed è sotto gli occhi di tutti da persone che non applicando il sistema di diritti vigente nel nostro paese poi finiscono per fare davvero una concorrenza che è inaccettabile. In ogni caso lei al cinese non ci va, non per farmi i fatti suoi, so che credo abbia due figli, anche i suoi figli non li manderebbe nel cinese? No, assolutamente no. No, perché io sono abituata alla tracciabilità, guardi, per me è un valore irrinunciabile, quindi io devo sapere da dove viene quello che mangio, credo che sia un diritto importante. Va bene. Quindi anche l'etichettatura, la tracciabilità, anche questi sono settori dove lì siamo praticamente alla deregulation. Allora, io la ringrazio per essere stata con noi, Francesca Martini, sottosegretario alla welfare, insomma alla salute, delega alla sicurezza alimentare della Lega, questo è importante, non l'avevo detto, me ne scuso, ma insomma la pensavo lo si conoscesse, lo si sapesse. E un attimo di pubblicità, poi riparto ovviamente da Cesarina Bette per capire cosa succede in Italia, gli ascoltatori, Marco Wong, e poi ci sarà questa intervista che voglio preannunciare, appunto, sulla sicurezza alimentare in Cina, intervista a Zhu Xing, scrittore, giornalista cinese che di questo si occupa e per questo sta pagando molto anche come controllo da parte della censura di Pechino in patria. Allora, Cesarina Bete, come detto, è responsabile dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quel centro che mi pare di capire dovrà fare i controlli sostanzialmente. Sì, noi come centro di referenza ci occupiamo di alimenti per animali, cioè di mangimi, ma come istituto zooprofilattico ci occupiamo anche di alimenti di origine animale destinati all'uomo, e quindi siamo stati identificati anche noi come laboratorio per effettuare questo tipo di controllo. Vorrei, se lei me lo consente, precisare due cose un attimo sulla melamina, perché mi sembra importante che gli ascoltatori abbiano chiaro il fatto che la melamina a tutt'oggi è prodotta perché viene utilizzata per un sacco di cose, per produrre resine termoindurenti che servono per fabbricare mobili, ma anche i piatti in plastica, si usa come additivo per produrre inchiostri e colle, si usa come ritardante di fiamma, come impregnante per carte e tessuti, quindi a tutt'oggi la melamina viene prodotta ed ha degli usi ufficiali controllati, certo, e garantiti. Il problema è dove finisce, se finisce nel latte. E nel 2007 invece era finita come era stata aggiunta aggiunta fraudolentemente a farina di glutine, di frumento e di mais ad uso zootecnico, quindi per gli animali, per cui già nel 2007 sono partiti tutta una serie di controlli proprio sui mangimi per verificare la presenza della melamina. E credo che negli Stati Uniti ci siano stati anche dei problemi, come l'ascoltatrice, tra l'altro veterinario, ci ha scritto in una mail, cioè certo, di animali che sono stati colpiti. Tutto è nato da lì. Negli Stati Uniti all'inizio del 2007 praticamente la melamina è stata ritenuta responsabile di numerosi casi di insufficienza renale e di morte in cani e gatti, per cui l'FDA, la Food and Drug Administration, aveva portato avanti degli accertamenti ed era emerso che in questi mangimi era stata aggiunta la melamina, che viene aggiunta perché direi semplicemente gonfia il contenuto proteico del mangime, che quindi, ma anche se non, di per sé non ha un valore nutritivo, anzi è una sostanza che porta degli effetti dannosi. Senta, possiamo stare tranquilli, come ha detto il sottosegretario, certo ci saranno tutti i controlli del caso eccetera, però la domanda che tutti i consumatori si fanno in Italia, insomma, il sottosegretario ci ha detto che per quel che riguarda i negozi etnici, vabbè, uno sa dove entra, questo posso tradurre così, con questa filosofia. Lei che ne pensa? Io penso che adesso si sta proprio attivando per effettuare tutta una serie di controlli che faranno sì che vengano appunto anche verificati i prodotti, soprattutto di origine cinese o comunque importati dai paesi terzi, e che quindi finché non abbiamo poi anche questi risultati, prima proprio di indicare come tutto così negativo, io aspetterei prima a vedere un po' come sono i risultati. Certamente il caso della Cina è un caso sentinella, tutti quei bambini con tutti quei problemi di insufficienza renale. Sì, no, perché qua ne parliamo, ma ci sono a parte 4 bambini morti, ma 53.000 bambini che sarebbero già stati affetti con patologie più o meno gravi. A livello renale, perché proprio questa sostanza porta a formare dei cristalli che danno questi problemi appunto a livello renale. Ovviamente, e questo lo vedremo tra poco nell'intervista, scandalo che si sapeva, ma sapete, c'erano le Olimpiadi, no? E poi tutto è stato tenuto sotto censura per un po' di mesi prima che sia emerso. Ascoltatori sono tanti, quindi come al solito rapidi se possibile. Marco dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, io sono un tecnico alimentare e lavoro nell'industria alimentare, nell'industria delle bevande in genere. Ecco, per quel che riguarda le materie prime, io sfido qualsiasi azienda italiana a dimostrare che non prende nessuna materia prima proveniente dalla Cina. Intendo dire, acido citrico mi viene in mente, che è usato in modo massiccio. Non ci sono più, sono pochissime le industrie in Italia o in Europa che producono questo acido, che è di largo uso, e viene tutto dalla Cina, questo per dirne uno. Quindi quel che viene in mente a me è che vabbè, stiamo cercando la melamina adesso perché c'è stato appunto questo problema, e si cerca assolutamente, si trova quel che si cerca. La mia domanda è: siamo sicuri che tutte le materie prime provenienti dalla Cina realizzate su impianti cinesi che devono essere certificati food grade, lo siano davvero? Bisogna dire, grazie Marco, che anche come sicurezza alimentare in Italia, basta leggere delle inchieste, l'ultima che avevo letto su Repubblica sul formaggio, insomma, vabbè, poi non dimentichiamo la vicenda del vino adulterato con morti, insomma, non è che tutto il mondo è paese, voglio dire, anche noi non abbiamo uno score da questo punto di vista molto positivo. Angelo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. A lei e a tutti i suoi ospiti. Io volevo portare due testimonianze, non vorrei accusare nessuno, per carità di Dio, è solo la mia testimonianza personale, perché ho toccato con mano. Io sono stato per diversi anni un istruttore di sub nella polizia, per i poliziotti, e mi creda, ne ho sentite tante, e lei deve capire, bisogna che si sappia una cosa. Innanzitutto, la maggior parte dei ristoranti cinesi magari a prodotti comprati in Italia, non lo metto in dubbio, ma molti altri acquistano solo e esclusivamente prodotti che arrivano dalla Cina. E mi creda, sentire le storie dei sequestri da parte della polizia, che non vengono quasi mai riportate dai giornali, io sono 10 anni più che non mangio in un ristorante cinese, perché sentire quelle storie me ne sono ben guardato. Un'altra cosa, proprio notizia di stamattina, sequestri su un'altra radio, lo sentiva, di scarpe in Toscana e così, perché erano scarpe che andavano alla Cina con cromo isovalente, che è cancerogeno. Va bene, Angelo, no, ma è stato chiaro. Prima di salutare un ospite che ci ha raggiunto e sentire l'intervista, Marco Wong, ha sentito? insomma, c'è un po' di timore, di preoccupazione riguardo a tutto quello che riguarda il mondo della ristorazione, in questo caso cinese, ma non solo. Ma, appunto, io mi rifaccio un po' a quello che stavo dicendo prima, anche in casi analoghi precedenti, insomma, c'è stato tutto l'allarmismo, però poi alla fine non è successo nulla. Beh, qui però, insomma, non è solo un finto allarmismo, ci sono 50.000 bambini che stanno male, ma voglio dire, lo stesso governo cinese ha ammesso... Ma io vorrei distinguere il problema su due piani. Uno è quello che sta succedendo in Cina, che sicuramente è di una altissima gravità, però diciamo questo qui è un problema che è facilmente circoscrivibile ai confini cinesi, che insomma, abbiamo visto che i prodotti caseari cinesi non sono importabili in Europa, poi quindi diciamo è una cosa che si può facilmente limitare alla Cina. È chiaro, nessuno mette, vuole minimizzare il problema in Cina, però adesso stavamo parlando del problema e delle ripercussioni in Italia. Sì. E qui, su questo, lei dice si può tranquillizzare. Io voglio salutare il professor Giorgio Calabrese, buongiorno, insegna nutrizione umana a Piacenza, è stato anche nell'autorità dell'EFSA, quella autorità per la sicurezza alimentare. Benvenuto, professor Calabrese. Senta, io vorrei far ascoltare anche a lei, come a tutti, l'intervista che ho preannunciato a Zhu Qing, che è un giornalista cinese, dissidente di piazza Tiananmen, arrestato, 2 anni in carcere con la rieducazione. Da quando è uscito si occupa, sotto ovviamente una stretta e rigorosa censura, di sicurezza alimentare. Ha scritto un libro uscito in Italia, si intitola La sicurezza alimentare in Cina, edito da Spirali, ovviamente libro che ha avuto tanti premi nel mondo, censurato in Cina. Racconta delle cose incredibili del libro, che poi vi dirò, ma sentiamo che cosa ci ha detto riguardo a quello che sta succedendo in Cina. La prima domanda è se è sorpreso da questo scandalo del latte alla melamina. Non sono per nulla sorpreso, perché avevo già scritto tutto questo nel libro. E vi metto in guardia, se il regime a Pechino non cambia, potranno verificarsi problemi più gravi. Come si è arrivati a questa situazione? Chi sono, secondo lei, i maggiori responsabili? I responsabili, prima di tutto, sono gli uomini che stanno all'Agenzia di controllo della qualità del cibo, così come chi dirige il centro per la distribuzione dei certificati di garanzia. Poi, ovviamente, ci sono le aziende produttrici che comprano certificati falsi, corrompendo i funzionari governativi. Il governo c'entra, anche perché lucra su questa vicenda, e nel contempo la copre. Lei nel suo libro racconta vicende incredibili come la salsa di soia che verrebbe prodotta anche utilizzando capelli addirittura, ma dobbiamo crederci. È sempre una questione di interessi, un circolo vizioso tra potere e denaro. È assolutamente vero che in alcuni casi sono stati utilizzati i capelli per produrre aminoacidi da utilizzare per produrre salsa di soia. Tutto solo per aumentare il guadagno. Questo scandalo, secondo lei, è stato insabbiato durante le Olimpiadi per non offuscare l'immagine di Pechino? Sicuramente questo problema non esiste da poco. Sono almeno 2 o 3 anni che è emerso. Ma la notizia si è diffusa solo ora, e peraltro in modo casuale, perché è stata denunciata per la prima volta dalla provincia del Gansu, una zona dove il controllo del governo è minore. Se questo scandalo fosse partito a Pechino o a Shanghai, questa cosa non sarebbe uscita. Lei è stato anche incarcerato per un paio d'anni dopo le vicende di Tiananmen come dissidente. Non ha paura a continuare a denunciare? Ovviamente c'è timore, ma sono fatti sotto gli occhi di tutti. È una scelta personale se denunciarli oppure essere indifferenti. Io lo faccio perché così mi sento con la coscienza a posto. Se poi un giorno la polizia dovesse venire a bussare alla mia porta, direi loro che arrestandomi aumenterebbe l'insicurezza alimentare nel paese. È bene che io denunci, altrimenti anche loro ne pagherebbero le conseguenze. Quante sono le probabilità che questa nostra conversazione venga ascoltata da qualcuno del governo? Il 100%. E dunque non ha paura? Che altra scelta ho? In Europa e in Italia dobbiamo temere qualcosa riguardo questo scandalo? In Europa dovrebbe esserci abbastanza sicurezza. In tutti questi anni non si sono mai registrati problemi. Quello che dovete temere, voi e il mondo intero, non è tanto il cibo cinese, quanto i conservanti prodotti dalla Cina. Questo ci ha detto dunque Zhu Qing, autore della Sicurezza alimentare in Cina, edito da Spirali. Temere soprattutto i conservanti. Professor Calabrese, a parte l'intervista, non so se vuole... Sì, non sorprende neanche me l'intervista. Non sorprende? No. Ma nel libro ci sono cose ben peggiori, cioè lo so. Estrogeni... Guardi, noi come Autorità Europea abbiamo fatto un grande lavoro di raccordo per salvaguardare l'Europa. E questo discorso ci ha dato grandi soddisfazioni, perché quello che noi stiamo trovando, lo troviamo perché lo cerchiamo, e partiamo da un concetto, che non è che tutto il latte che arrivi dalla Cina ora sia con la melamina, come non tutto il latte dell'Europa è perfetto. Certamente in quello europeo non esiste assolutamente un'idea che possa essere dannoso. Ce n'è quello che è più sicuro, un po' meno sicuro, però la sicurezza di base c'è sempre. In quello della Cina questa sicurezza in alcuni latti non c'è, non c'è in alcuni prodotti, e ha ragione il nostro eroe che ha creato il problema dei conservanti, delle sostanze additivanti, perché anche il discorso che si diceva stamattina delle scarpe col cromo esavalente non può esistere. Questa è una nazione di grandissimo valore, che ha dimostrato con le Olimpiadi di essere una grande nazione anche a livello economico, però deve darsi una regola, perché queste regole ce le ha soltanto sulla carta. Poi ogni tanto fanno dimettere il capo di quella cosa, perché si stanno rendendo conto che essendo entrati nel giro mondiale col WTO, dove sono entrati nel commercio mondiale, non possono pensare di gestire le cose. Però professore, lei ha detto anche in Italia giustamente non tutto è perfetto, basta leggere i giornali, se ne scoprono di inchieste, di scandali, i NAS sono sempre lì a prendere, e quindi voglio dire... Però i NAS controllano, i NAC controllano, voglio dire, cioè, dobbiamo partire da un concetto, non è che al mattino ci si alza e tutti siamo tutti santi. C'è sempre qualcuno che ruba, c'è sempre qualcuno purtroppo che ammazza, c'è sempre qualcuno che fa delle cose illegali. Uno Stato è democratico quando, essendoci uno che non è onesto, ha un controllore che lo arresta, che lo blocca, che non lo fa andare avanti. Questo è il discorso della democrazia. Se noi pensiamo che esiste uno Stato nel mondo che non abbia mai nessuno nel campo, di qualunque campo, dall'ingegnere al medico, al produttore alimentare, all'avvocato, tutto quello che vuole lei, al giornalista, che siano tutti saggi, tutti santi, tutti onesti, questo discorso è un po' teorico, anzi molto teorico. Noi dobbiamo fare questo, i controlli devono funzionare. Quello che stanno facendo i NAS in questo momento con i cinesi è sacrosanto, perché abbiamo un sistema sanitario, il Ministero della Sanità, che funziona, un Dipartimento della Sicurezza Alimentare che funziona, un sistema di veterinari che funziona, e che vanno a cercare e a requisire questi elementi per valutarli e dire vediamo se c'è la melamina o altre cose. Allora, sentiamo un ascoltatore, ecco, credo proprio sia cinese, perché mi scuso già per la pronuncia, Tan Jianqi, è giusto? Da Milano? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi scusi per la pronuncia, non sarà stata corretta, ma dica. Ascolti, io stavo ascoltando un attimo il vostro programma e volevo dire che sono una ristoratrice cinese di Milano. Sì. E che le parole del professor Calabresi mi sembrano assolutamente corrette, ci vuole controllo. Però, essendo già difficile controllare l'Italia, figurati se... È facile controllare una nazione come la Cina. Comunque le difficoltà nei controlli ci sono, e a Milano in questo periodo sono stati controllati un sacco di ristoranti cinesi e negozi, tra cui alcuni i miei parenti, però non è mai stato trovato niente, e secondo me in questo periodo si sta facendo troppa cattiva pubblicità sulla nostra categoria, ci stanno veramente rovinando la clientela e il nostro giro d'affari, che alla fine anche i ristoranti cinesi credo che facciano parte dell'economia italiana. Lei teme insomma che ci sia un contraccolpo economico, che magari ha già notato qualche calo di cliente? Sì, in questo periodo sì, abbiamo avuto un calo di clienti da un giorno all'altro proprio. Legato, sì, immagino, a questo? O... sono quasi sicura, perché non può essere che un giorno... Perché poi la notizia è scattata ieri, quindi proprio così, all'improvviso. Ecco. Certo. Professor Calabrese, vuole rispondere alla nostra ristoratrice milanese? La ristoratrice cinese ha ragione, perché quando uno è una persona onesta, certamente si dispiace che ci siano i disonesti che fanno questo e poi ne paghi le conseguenze solo perché sei della stessa nazione. Però alla nostra amica cinese io voglio ricordare che io stesso in questo periodo non andrei in un ristorante cinese, ma non perché voi non siete onesti, ma perché c'è una regola che dice, come è stato con la Viaria, con la BSE, nonostante noi avessimo prodotti sanissimi, non c'è mai stata la Viaria in Italia, neanche la BSE, noi, i nostri macellai e le pollerie non vendevano più cose. È normale questo, c'è un po' di difesa da parte del consumatore, perché comunque voi vendete prodotti di origine cinese. Quanto però questa difesa è legata anche a una percezione sbagliata? Io leggo un titolo su un giornale, leggo ieri il titolo del giorno, sindrome cinese, e che penso? Che mi stanno fregando, mi stanno accerchiando? Voi giornalisti avete anche il diritto, poi i titolisti sì, ancora un'altra cosa ancora. Però voglio dire, è naturale che quando insomma si cavalca il cavallo che corre così, però devo dire che io preferisco nella prima fase un po' di loro crisi, lo capisco che per loro non è positivo, un po' di loro crisi per poi tornare ad una garanzia, perché i NAS, i NAC, i NOE hanno fatto tutti i controlli, l'Istituto Superiore della Sanità, l'EFSA e tutti quelli che vogliono, e diranno che in Italia non hanno trovato nulla, piuttosto che avere dei personaggi che invece restano nel dubbio. Allora, un po' di crisi iniziale, voi continuate come ristorante cinese a fare delle cose positive e vedrete che la cosa funzionerà, però fatelo voi già i controlli, perché non è possibile che ci siano dei biscotti in cui c'è scritto che c'è il latte di crema cinese e vengono venduti tranquillamente in questo periodo nei vari supermercati cinesi e poi dall'altra parte qualcuno si spaventa. Toglieteli già voi prima, piuttosto che... Comunque lei ha fatto outing, anche lei ha detto io non ci andrei adesso al cinema. Certo che non ci andrei, assolutamente. Però non è un messaggio secondo lei molto forte, anche un po' pericoloso? Forte, lo so, è forte, però è un discorso di fondo, cioè il consumatore deve avere delle certezze. Allora, ci sono i NAS che hanno requisito tutti i vari prodotti che stanno facendo, facciamoli controllare e poi ritorniamoci quando siamo sicuri, perché altrimenti diventa un discorso di fidatevi, se fidatevi non c'è più nel consumatore la parola fidatevi. Allora loro stessi devono avere la sicurezza. La signora mi sembrava una persona molto per bene, se io capisco che in questo momento stiamo andando in crisi, i controlli saranno fatti velocemente, in qualche giorno avremo la sicurezza che in quei prodotti non c'era melamina, e quando verrà comunicato vedrà che ci sarà di nuovo dei giornalisti che diranno potete tornare. La cucina cinese nel mondo, in Cina, ha creato dei problemi, però in Italia è sicura. Va bene, io con lei mi fermo, la ringrazio professor Calabrese, Cesarina Bete, Marco Wong e sottosegretario Martini per essere stati con noi. Potete riascoltare come al solito tutto sul sito radio24.it la puntata. Ringraziamenti anche ad Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi in redazione e Giorgio Matè in regia. Con Viva Voce ci ritroviamo lunedì mattina.